Gli istanti immediatamente dopo la morte. 27 settembre. Egli rimase a lungo da me. Io gli chiesi, per favore dimmi, se immediatamente dopo la morte noi vediamo Dio? Lui, sì. Un rabbrividire dell'anima in adorazione e poi un precipitare nella purificazione. Io, non puoi dirmi altro? Lui, no, quanto più ami Dio, più grande la felicità, pensaci. Io, ci vuole ancora molto tempo prima che tu sia completamente puro? Lui, no. 29 settembre. Ho visto tre volte in chiesa una donna anziana davanti all'altare della Madonna, però non la conosco. Il domenicano fu qui a lungo. Io, ma dimmi, con quale mezzo uno può salvare la sua anima? Lui, con una fede salda e l'umiltà. Io, posso fare qualche cosa perché le povere anime non vengano più? Lui, no. Io, ma e se io non pregassi più per voi? Lui, e se ti costringerebbero? Io, posso io chiamare un'anima, dalla quale vorrei sapere qualche cosa? Lui, tu non hai alcun potere su di loro. Nota. Gli spiritisti credono che si possano evocare i morti. Ora, se questa non fu possibile a questa santa donna, che aveva una tale possibilità di poter vedere i morti, come lo potranno fare dei curiosi spiritisti? E allora, chi appare nelle seance? 1 ottobre. Viene ancora qualche cosa di difficile, sembra una bestia. Lo so che anche questo passerà, ma ho una paura indescrivibile. 3 ottobre. Dopo la sofferenza venne il domenicano. Io, sono contenta che tu vieni, ho tanta paura. Sai chi era qui? Lui, no, noi seguiamo uno per uno la nostra strada. Io, era una bestia, perché una bestia? Lui, tu vedi il peccato, dimenticati e soccorri. Io, che cosa è che giova più in fretta? Lui, l'offerta della tua volontà. Io, perché non la santa messa? Lui, perché essa non vi ha creduto. Io, ma gli altri giova subito. Lui, tu non puoi capire che cosa è la giustizia di Dio. Io non ho affatto paura del domenicano, quando arriva, anzi sono contenta quando viene. 7 ottobre. Ora quella cosa orrenda sta con me ogni notte. È una grande scimmia, come già una volta. Perché sempre questa tremenda paura, non potrò mai abituarmi a una cosa di questo genere? 9 ottobre. Purtroppo il domenicano non viene, viene invece quell'altro. 10 ottobre. Una notte spaventosa, ma forse anche questo è per la mortificazione della volontà. Per questo voglio descrivere solo i fatti e non lamentarmi più. La scimmia è alta come una porta e salta intorno come un pazzo. Sembra che non voglia ancora sentir pregare. Essa entra dalla finestra, cosa che mi è sempre particolarmente pesante e paurosa. Mi soffia e sbuffa come una bestia selvatica. Essa voleva strangolarmi, ma mi sono messa in fretta al collo la croce dei moribondi. 14 ottobre. La scimmia viene ogni giorno o tanto più la notte. Una cosa molto strana, la sua pelle è come fosse stata sotto la pioggia, tanto è bagnata. Le sue grandi braccia mi hanno stretto come una morsa. Eppure sono contenta che sia una scimmia, perché se venisse una serpe, io proprio non sarei capace di sopportarla. 17 ottobre. La scimmia è insopportabile, i suoi occhi sono di fuoco e mi guarda con essi fissandomi. Devo dire che sono diventata più coraggiosa. Un anno fa io non sarei ancora stata capace di sopportare una cosa del genere, e perdevo ancora la conoscenza. Io mi sentivo così sfinita, venne il domenicano e il mostro andò via. Io, perché non sei venuto prima? Lui, tu eri circondata. Io, da che cosa? Dal più grande dolore. Io, sì, aiutami a soccorrerlo. Lui, io non sono ancora libero. Allora dimmi, che cosa devo fare per lui? Lui, mostragli il tuo amore. Io, ma io non posso ancora destare nessun amore per lui, al massimo il principio, la compassione. Lui, fa quello che ti riesce proprio difficile. Vuoi dire flagellarmi? Lui, sì. 18 ottobre. Il domenicano venne al mattino. Io, mi hai detto che non eri ancora libero, posso liberarti? E con che mezzo? Dammi 7 sante comunioni. Io, perché non me lo hai detto prima? Lui, perché le hai donate ancora ad altri? Io, come fai a saperlo? Lui, vidi come se ne andavano via da te con le mani colme. Io, un'altra anima mi ha detto che non poteva vedere le anime, che vengono da me. E allora come mai invece lo sai? Lui, noi siamo diversi. La scimmia fu da me tutta la notte molto agitata, essa stette seduta in un angolo per la maggior parte del tempo. Poi si slanciò su di me come un cane cattivo. Io le gridai, tu non puoi farmi questo. Allora crollò a terra, saltò per aria e poi di nuovo su di me. Allora io le diedi una sberla. Mio Dio! Non lo farò mai più! Egli gridò con dolore selvaggio. Si raggomitolò in un angolo. Quanta pena mi fece! Mi rincrebbe tanto di essere così cattiva con lei. Feci quanto potei e lei disse che poteva fare ciò e le più le giovava. E avevo scritto che avevo più coraggio. Se avessi scritto e le avevo meno cuore, sarei stata più sincera. 19 ottobre. Mentre stavo giocando con Wolfram, venne il domenicano. Io, non spaventare il bambino. Lui, la sua innocenza mi attira. Effettivamente il bambino era tutto allegro. Lo ha guardato, egli era effettivamente ordinatissimo, incredibile, ma vero. Io, per favore va via, vengono degli altri. Lui, essi sono vivi. Io, ma anch'io. Lui, tu appartieni a noi. Si curvò verso Wolfram e disparve. Perché appartengo a loro? Mi sento di nuovo intimorita.